Capitolo quinto. Come l'anima debba rimanere unita a Maria. Vincoli misteriosi, meravigliosamente stretti, uniscono la vita del figlio a quella della madre. Sembra che la loro vita sia una sola e medesima vita. Così è nell'ordine soprannaturale. L'anima non riceve alcun influsso vitale senza il contatto con la sua madre celeste. Per mezzo della fede conosciamo tal dipendenza continua e universale. Non basta aver ricevuto una volta nel battesimo la vita soprannaturale, poiché questa vita deve essere continuata ad ogni istante. La creatura, nell'ordine naturale, dipende interamente e senza interruzione dal suo creatore, sino al punto che con la conservazione degli esseri è chiamata una continua creazione. Ancora più assoluta è la dipendenza dell'anima nell'ordine soprannaturale rispetto allo Spirito Santo e a colei che egli si è associata come sposa. Se l'anima cessa di aderire all'anima di lei, cessa di vivere. D'altra parte, l'anima può, a volontà, stringere più fortemente i vincoli che l'uniscono alla sua madre celeste e, nella medesima proporzione, ricevere da essa maggiori grazie. Quanto più terrà le labbra dei suoi desideri applicati a quel seno materno, tanto più il latte dell'amore divino sgorgerà dal cuore della madre in quello del figlio. Avendo a tua disposizione un mezzo tanto facile per divenire un gran santo, potresti tu trascurarlo? Ti basta rimanere unito alla Santissima Vergine, con una preghiera continua, con il desiderio incessante di ricevere in te la vita di Gesù. Guarda come la pianta spinge le sue piccole radici in seno alla terra che la porta. Semplice pianta ha ricevuto da Dio un istinto segreto per dirigere le radici verso la parte del suolo dove troverà maggior nutrimento. Quale esempio per te? Spingi molto addentro, nel cuore della madre tua, tutte le fibre dell'anima, tutte le tue aspirazioni e i tuoi desideri, e attingi abbondantemente in esso il succo soprannaturale. Guarda come la pianta, crescendo, getta radici più numerose e più profonde, perché quanto più si sviluppa, tanto più parimenti ha bisogno della terra. Così tu, crescendo spiritualmente, hai maggior bisogno di rimanere unito a Maria e di abbracciarla con le molteplici braccia della tua preghiera. Ma questa preghiera, questa supplica incessante, deve essere umile. Riconosci con semplicità la tua miseria e la tua dipendenza assoluta dalla madre tua. Torna, bambino umile, piccolo, senza pretese, senza fiducia nelle tue virtù e nei tuoi meriti, e sarai come l'edera, la quale non ha alcun appoggio in sé, ma sale fino alle cime dei più grandi alberi. In tal modo, appoggiato a tua madre, salirai in alto quanto lei e avrai la dolce consolazione di sentirti portato da essa. Se tu fossi forte e ricco, non avresti bisogno di madre, ma sei povero, debole e piccolo. Hai dunque diritto alla carità e alla generosità della madre tua. Che la tua preghiera sia fiduciosa. Che cos'hai da temere, povero bambino, nell'anima della migliore delle madri? Il suo ufficio è di essere buona con te, di amarti, di vigilare su te, di darti la vita di Gesù. Tutto quello che ha ricevuto, essa lo comunica ai suoi figli. Per lei, generare Gesù nelle anime vuol dire essere madre. E quanto più è madre, tanto più aumentano la sua gioia e la sua felicità eterna. Chiedi incessantemente, prega senza interruzione, e sii sicuro di ricevere tutto. E farai al suo cuore materno un piacere indicibile. Non perché tu sei buono, essa è generosa e disposta a concedere, ma perché lei medesima è buona e limitatamente, e perché ha bisogno di fare il bene. È madre, e una madre non vive se non per aiutare i suoi figli. Essa ha accettato di essere il canale della bontà di Dio in favore degli uomini. Sa di non esistere se non per trasmettere i benefici di Dio. Falle dunque il piacere di credere che riceverai da lei ogni bene. Permettile di amarti quanto desidera, quanto una madre di Dio può amare. Non mettere limiti alla tua fiducia. Lasciale la cura e la consolazione di cullarti nelle sue braccia, di nutrirti con il suo latte, di scegliere per te quello che più conviene ai tuoi bisogni. Le consolazioni o l'aridità, la fortuna o la sfortuna, la salute o la malattia, il riposo o il lavoro, la vita o la morte. Ha pure il diritto di decidere lei stessa quello che è più favorevole alla tua vita spirituale, senza che tu ti prenda la briga di dirle le tue preferenze. Infine, che la tua preghiera sia un atto di amor filiale. È tua madre. Puoi amarla finché vuoi, senza timore di eccedere, perché amandola ami Gesù che ella forma in te. Nel tuo amore filiale non raggiungerai mai i limiti di quel cuore materno. Potrai sempre dirti di amarla meno di quello che lei ti ami, di rimanere molto al di sotto della riconoscente tenerezza che tu le devi. Oh buona madre, voglio amarti sempre e sempre pregarti. Quale intima gioia provo nel sapere che vivo in seno all'anima tua e che incessantemente tu riversi in me la vita di Gesù. Quando la Madonna ha fatto capire ad un'anima come debba restare unita a lei per mezzo di una preghiera continua, quest'anima possiede il pegno più sicuro della sua futura santità. Tutti gli altri segni, infatti, possono ingannare. Se uno facesse miracoli e non avesse la santa abitudine di ricorrere continuamente alla Madonna, non potremmo essere sicuri della sua perseveranza. Se uno praticasse la virtù per lunghi anni, non potremmo esser sicuri che continuerà in questa via, se non è unito a Maria come il bambino a sua madre. Un segreto orgoglio può insinuarsi nel suo cuore e perderlo. La vita di rinunzia può infine stancarlo ed egli può abbandonare tutto. Gli esempi di simili cadute non mancano, ahimè, nella storia. Se uno ha speso la sua vita al servizio di Dio e gli ha ricondotto folle di peccatori e si appoggia su tal merito per avere la perseveranza, è temerario. Non è questo che può rassicurare, perché enumerando i propri meriti, dice Sant'Agostino, che faccio io se non enumerare i tuoi benefici? Perciò Sant'Alfonso, sempre preoccupato della sua perseveranza, analizza tutti i segni che può avere di essere fedele sino alla fine e vede che tutti sono difettosi in qualche cosa e conclude che non vi è dunque se non un sol pegno di perseveranza, la preghiera continua. Poi si turba nuovamente e si domanda: pregherò io sino alla fine? non sarò un giorno infedele o negligente nella preghiera? A questo nuovo timore si getta nelle braccia della Madonna e le dice: Madre amatissima, dammi il pensiero e la voglia di pregarti sempre. So che tu sei tanto buona, che se per colpa mia cessassi di invocarti, mi forzeresti a farlo per non vedermi perso. Il ricorso continuo alla Santissima Vergine era dunque la conclusione di tutta la teologia di questo dottore della Chiesa, il punto centrale di tutto il suo ascetismo. Quando, arrivato alla sua estrema vecchiezza, non si ricordava più se aveva detto il rosario, lo domandava al frate infermiere. Un giorno questi gli disse: «Vorrei avere tutte le corone che vostra paternità ha recitato in più oggi». Allora il santo prese un'aria grave e rispose: «Fratello, non scherzare, non sai che dal rosario dipende la mia salvezza eterna?» Grande verità, dal ricorso fedele alla Madre Nostra dipende definitivamente la nostra salvezza e la nostra santità. Oh, come voglio arrivare a pregarla sempre! Madre, insegnami tu stessa ad invocarti incessantemente, a restarti sempre unito come il bambino alla madre. Questa preghiera è diversa secondo le circostanze e può perciò essere continua. Fin dal mattino il tuo cuore deve essere pronto ad offrire a Maria le primizie del giorno e tutte le occupazioni della giornata. Dille: «O mia sovrana, o mia madre, io mi offro tutto a te, e per provarti il mio amore, ti consacro oggi i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore e tutto me stesso. Poiché ti appartengo, custodiscimi come tuo bene e tua proprietà». Talvolta la tua intelligenza e la tua volontà devono applicarsi a penetrare più addentro nell'anima della Madonna e riposarsi in lei con fede più viva e fiducia più assoluta. È il tempo della meditazione tranquilla, in cui l'uomo tiene in mano tutte le sue facoltà. Ma questi momenti sono brevi. Per la maggior parte del tempo devi contentarti di un semplice ricordo, di una preghierina lanciata di volo, di uno sguardo di amore, di un pio bacio sopra qualche sua immagine. Oltre a questa attenzione amorosa a Maria, questa unione con Gesù per mezzo di Maria, l'anima deve concentrare i suoi sforzi sulla pratica esterna. Il figlio di Maria si sforzerà dunque di non omettere mai la recita del rosario, siano pure urgenti le sue occupazioni. È un vincolo misterioso, la storia e l'esperienza quotidiana l'attestano, che collega il figliolino a sua madre. La Chiesa ha confermato, con la sua autorità e con il suo esempio, l'alta efficacia di tal preghiera. Poi, oltre a ciò, l'anima si sforza di non interrompere le sue relazioni con la Madre Divina. Nei momenti persi, sgorgano dalle sue labbra spontaneamente le Ave Maria. Andando da un'occupazione all'altra, nella noia degli affari, nelle tentazioni, nelle gioie e nelle pene, l'Ave Maria passa sempre dal cuore del figlio in quello della madre. Solo in compagnia, chiuso nella sua camera o attraverso le vie della grande città, nel silenzio della solitudine o nel rumore e nel tumulto delle riunioni pubbliche, il figlio di Maria mormora in silenzio l'Ave Maria. So bene che spesso questa preghiera non può fare a meno di essere distratta, ma la madre non guarda se non alla buona volontà. Talvolta esso non è neppure in stato di recitare questa breve preghiera. Allora si unisce alla Santissima Vergine col pensiero amoroso e confidente, oppure avvolge nelle sue dita la corona. E questo contatto voluto è sempre un atto di amore e una preghiera. La sera si raccoglie più profondamente, ripete a Maria l'offerta di tutto se stesso, chiede perdono a Gesù per mezzo di lei, delle colpe della giornata. L'ultima sua preghiera, aspettando il sonno, è pure l'Ave Maria. Nella insonnia, nel destarsi, è sempre il ricordo di Maria che si riaffaccia. Il figlio si rimette nelle braccia di sua madre, nell'anima sua materna con fiducia e umiltà, e riprende la preghiera favorita, l'Ave Maria. Forma così l'abitudine del ricorso a Maria. Devi considerare questa pratica come capitale nella vita del tuo spirito, perché se non sei unito alla madre tua con la preghiera e con il desiderio, morirai di languore. Gesù poteva darci un mezzo più facile, più dolce e più efficace di quello di insegnarci il ricorso continuo alla madre sua? O Santissima Vergine, io sono il tuo figliolino, nascosto nel più profondo dell'anima tua benedetta. Mi hai concepito per la tua immensa carità, mi hai scelto per tuo figlio, mi hai amato e adottato per essere fratello di Gesù. Voglio passare la mia vita in te, rimanere tuo figlio sino alla morte e sino nell'eternità. Non voglio più uscire dall'anima tua, voglio crescere in essa e riprodurvi Gesù. Per puro effetto del tuo amore e senza che io lo sapessi, sono stato concepito insieme a Gesù nel tuo seno materno. Oh, ora che ho apprezzato la mia felicità, non mi respingere, ma piuttosto stringimi ogni giorno di più a te, allacciami maggiormente con i vincoli innumerevoli dei tuoi benefici. Ricordati che sono un altro Gesù. Oh, come devi amarmi, perché io ti amo tanto. Sì, per mezzo di Gesù, di cui posseggo il cuore, ti amo infinitamente. Voglio lottare d'amore con te, oh madre mia. Prenderò in prestito dal mio fratello Gesù la tenerezza che ti porta, e con questa tenerezza ti circonderò incessantemente. Non badare alle mie debolezze, alle mie incostanze, alle mie negligenze. Le deploro e le deplorerò sempre. Lava l'anima mia nel sangue del tuo agnello immacolato. Non voglio alcuna colpa e ti prego di perseverarmene in avvenire. Vergine cara, continua verso di me il tuo ufficio di madre. Attingi nell'anima tua il mio nutrimento spirituale. Adatta questo nutrimento alla mia debolezza, ai miei bisogni. Non permettere che io distolga mai la mia attenzione da te o che vada altrove a cercare soddisfazioni micidiali. Tu sei la madre mia. Come la pianta affonda le sue radici in terra, così io immergo i miei desideri, le mie aspirazioni in te. Come l'albero stende lontano i suoi rami per sorbire con i mille pori delle sue foglie l'aria che deve sostenere la sua vita, così, buona madre, stendo verso di te gli innumerevoli desideri e i bisogni dell'anima mia. Ottima madre, voglio rimanere tuo figlio. Io ti consacro il mio intelletto, la mia volontà, il mio cuore, i miei sensi, tutto il mio organismo umano. Ti consacro la mia vita spirituale che ho ricevuto da te. Ti consacro e ti rendo quel Gesù che vive in me per tua volontà. Ti cedo tutto oggi, pregandoti di non rendermelo mai più. E se per caso volessi riprendere la mia volontà, impediscimene, come la madre impedisce suo figlio di farsi male. Intendo rinnovare tale offerta quante volte respirerò e il mio cuore batterà. Non permettere soprattutto che io cessi di stare in te e di pregarti. E qualora dimenticassi questo dolce obbligo, ricordamelo subito, perché senza di te perirei certamente. Qual gioia sarà per me nell'eternità di abbracciarti e di ripeterti il mio amore e la mia riconoscenza. Intanto chiudi bene tutte le uscite del tuo cuore, perché io non sia mai tentato di fuggirne.